Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Quanto pesano burocrazia e leggi a vantaggio di pochi sullo sviluppo delle rinnovabili in Italia? Insomma, dare una cifra non è facile, ma una cosa è certa: al di là della scocciatura che certi adempimenti comportano, il costo della burocrazia si misura spesso in decine di punti percentuali sul costo finale di un impianto energia rinnovabile. E il risultato è che servono più incentivi più alti che in altri paesi per convincere gli investitori, appunto, a investire, col risultato quindi di far costare di più al sistema paese, quindi infine ai cittadini italiani, la diffusione delle rinnovabili. Stasera allora partiamo per un giro di giostra, magari non molto divertente, che non vuole essere assolutamente esaustivo, ma che vuole raccontarvi attraverso qualche esempio emblematico alcune delle stranezze burocratiche che affliggono il nostro paese per quanto riguarda appunto lo sviluppo delle rinnovabili. Partiamo da un'email di una nostra ascoltatrice che mi ha molto incuriosito e di cui parliamo per cominciare con il responsabile del fotovoltaico di Aper, l'associazione produttori di energie rinnovabili, Joel Zunato. Buonasera Joel, benvenuto. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora Joel, un'ascoltatrice, Miriam, mi scrive che sta mettendo un impianto fotovoltaico da 4,7 kW, quindi molto piccolo, sul tetto. Gli è stata richiesta, non se lo aspettava, anzi insomma pensava ormai di aver finito la procedura autorizzativa, di essere pronta a ricevere anche l'incentivo, invece le arriva questa strana richiesta di un certificato antimafia per un impianto di 4,7 kW. Ma è normale? Sì. No, beh, non è normale. D'altronde può succedere, la pubblica amministrazione può richiedere questi certificati, bisognerà andare a fare una richiesta in prefettura per il rilascio di questi certificati. Insomma, in linea di massimo un'autocertificazione non basta. Ecco, però forse questo non è il caso più strano, no? Di burocrazia, come dire, un po' oppressiva. No, lasciando perdere tutta una serie di problematiche legate alle fasi autorizzative, poi ci sono problemi anche nella fase di gestione. Per esempio, se l'impianto è sopra i 20 kW, quindi un'officina elettrica, sono obbligato a tenere un registro che va compilato quotidianamente con i dati di produzione del mio impianto stesso. E se non sbaglio la legge dice che va compilato a mano. Va compilato a mano e va tenuto sul luogo di produzione, che può non essere un problema per impianti tradizionali, ma per esempio impianti fotovoltaici a terra che non hanno uffici, non hanno strutture dedicate, questo risulta essere un grosso problema. Cioè, in pratica, se l'impianto si trova lontano, diciamo, da dove si trova la persona che lo gestisce, questa in teoria tutti i giorni dovrebbe andare all'impianto, prendere, segnarsi il numero sul registro e tornare a casa, è così? In teoria esatto, in teoria dovrebbe essere così. E parlando proprio di produzione di energia elettrica distribuita, quindi dove è molto facile trovare soggetti, imprenditori con impianti di piccola taglia diffusi sul territorio, può diventare un onere anche considerevole. Grazie Joel Zunato. Grazie a voi, buona serata a tutti. Questi sono due esempi, ma ce ne sono davvero tanti. Uno ve lo voglio fare io: l'iter per attivare nuovi impianti mini idroelettrici, per esempio, è complicatissimo, normalmente richiede anni per essere completato. Parliamo di produrre energia elettrica a partire da piccoli salti, spesso di pochi metri, per esempio del tipo che si trovano lungo i canali di irrigazione. Tra gli obblighi che la normativa prevede c'è la realizzazione di scale di risalita per i pesci, che è un'opera costosa, ma certamente anche doverosa, a patto però che non faccia danni, per esempio andando a turbare un equilibrio stabilitosi in decenni o addirittura secoli, durante i quali quel salto ha rappresentato una barriera naturale e ha portato quindi allo sviluppo di ecosistemi diversi ai due lati della barriera, a volte tra loro incompatibili. Metterli di nuovo in contatto a volte serve solo alle specie aliene, come per esempio i famigerati siluri, che così invadono spazi rimasti tutto sommato abbastanza incontaminati. La legge non fa distinzioni da questo punto di vista. E questo per quanto riguarda la burocrazia. Poi c'è un altro versante che potremmo definire delle leggi ad lobbim, mi piace questa definizione, e un caso eclatante me lo ha segnalato Francesco Dugoni, direttore dell'agenzia Agire, l'agenzia per la gestione intelligente delle risorse energetiche che fa capo alla provincia di Mantova. E Dugoni ci parla di potature del verde pubblico. Ascoltate. Chi opera nel settore, il giorno 25 dicembre 2010 si è trovato una sorpresa non gradita, perché è entrato in vigore il decreto legislativo 205 del 2010 che riclassificava le potature e gli sfalci di origine urbana a rifiuto. Stiamo parlando del verde pubblico che viene manutenuto e, insomma, quando si fa la manutenzione ci si ritrova un po' di ramaglie, foglie, eccetera, eccetera, sì, per sì, le mani, no? Si pensi a tutta la manutenzione del verde privato, del verde urbano, è tutto materiale che fino a poco prima di questo decreto del dicembre 2010 era ancora considerato materia seconda, quindi riutilizzabile. Biomassa che si poteva, per esempio, bruciare, no? Oppure utilizzare per farci... Non solo bruciare gli sfalci, le potature, ma gli sfalci potevano anche finire, ad esempio, in un digestore. Certo. Per fare biogas. Per fare biogas. E invece, dove finiscono tutte queste ramaglie nel momento in cui sono rifiuti? Sì, la destinazione finale potrebbe essere o la discarica, che è un assurdo, che più assurdo non si può, oppure può essere ritirata da questi consorzi di compostatori, per esempio, che... utilizzando, ritirando questo materiale come rifiuto, lo rielaborano, lo trasformano in compost da commercializzare, per cui, diciamo così, la lobby dei compostatori ha favorito questa evoluzione normativa, che è più che un'evoluzione, direi che è una involuzione, e quindi ha messo in difficoltà amministrazioni pubbliche e cittadini. E già, perché quella che era una risorsa diventa un rifiuto, ma i rifiuti vanno smaltiti e sono i cittadini con la tassa per i rifiuti a pagare questo smaltimento. Ora il decreto 28/2011 ha reintrodotto questa biomassa come fonte di energia, ma senza cancellare la precedente legge, e creando così una situazione fortemente contraddittoria in cui gli operatori non se la sentono di rischiare, perché ricordatevi che quando si parla di rifiuti c'è di mezzo il codice penale. Che cosa dire? Resistere, resistere, resistere? Ci sentiamo lunedì. We'll be right back.